tranquillo, che domani poi non dire che non sei tu che rompi coglioni, capito, stronzo? Due auto nelle mani crepate tutte e due, esatto? Finalmente quando sveglio a quella bagassone di tua madre, vero? Poi dici che non sei tu che rompi coglioni, non c'è tua madre bagasse, capito? Me rotti i coglioni! Per domani ti faccio questo numero 24-364, capite? Ne sveglio quella grande bagasse, mamma tua! 200.000 lire, vero? Ma con cazzo tra i due, capito? Perché domani ti faccio pedinare dai carabinieri, capito? Ti denuncio! Brutto porco drogato! Drogato!